aprimi, apri quella porta per fuggire. Spezzami, spezza le catene che mi legano. I miei occhi sono al buio e non vedo più la luce. Le mie gambe sono roccia e vogliono andare via. Prigioniero sono io di questo mondo crudele che lega le mie mani e vuole chiudermi la bocca. Io non mi arrenderò a questo assurdo ricatto. Vorrei trovare una strada senza frontiere, andare verso il sole della felicità. Io sono nato libero. Io sono nato libero. Grida, gridiamo a questa vita che m'arrotoli. Speranza, tu che sprofondi nel dolore. I nostri sogni uccisi, feriti e torturati. In queste quattro mura io resto prigioniero. La nostra dignità non sarà calpestata. Il tempo non passa mai e asciugo le mie lacrime. Pungenti son le notti come i deserti dell'anima. E quelle frasi scritte sulle pareti invecchiate. La legge del potere condanna e uccide ideali. Io